No, io lo prendo addirittura il baracchino io, con questo baracchino qua che sto usando adesso. C'è un potenziometro che lo tiro fuori, lo tiro, che è addirittura accetto la radio, Rai 1, capito? Ah, è quello buono, ma che quello è bello lo stesso. No, vedi, anch'io, adesso mi stai parlando di AM, cioè con il mio mobiletto, una vecchia radio, cioè veramente tu li hai conosciute, della Vauxhall, solo in AM, funzionante, che ho trovato sempre lì, della differenziata, prima la discarica, se si chiama differenziata, e funziona benissimo, è portatile, e questo tipo di radio è bello, alla custodia, c'è presente quella pelle nera con una piccola maniglietta che puoi trasportare in giro, solo che la custodia si è completamente rovinata col tempo, quella radio l'ha conservata perfettamente, una vecchia radio della Vauxhall, sempre in AM, con un piccolissimo, adesso perché pur come apre il tappo c'è tutto il circuito per mettere le batterie, un piccolissimo condensatore variabile che c'è anche le sfere, in modo che giri perfettamente. Sicuramente tu l'hai conosciuta questa radio. Sì, sono quelli che hanno la demultiplica, ti hanno capito, sì. E io ne ho una addirittura che quando c'è la trazione all'interno c'è l'antenna, c'è la bobina in cocoro, no? Quella il ferrocube dove c'è avvolta la bobina che gira, si può immaginare, cioè non niente mai tra l'antenna. Vado a dove, ti devo lasciare, dai, quando ho chiamato per la cena, avrei voluto continuare ancora, però devo scendere giù a cenare, dai, ci sentiamo eventualmente magari domani, Ciao Tony, scusa se non mi trattengo ancora, dai, ma devo per forza scendere a mangiare. Ciao, buonanotte, ciao. E non ti preoccupare Giù, tu prima di lasciarti a me devo chiederti un'altra cortesia veloce. Dunque tu lo sai benissimo, queste vecchie radio hanno quella specie di, non so se è batterite, comunque è un materiale nero, cubico, dove c'è avvolta una resistenza, sicuramente quella è l'antenna. Va bene anche quella per costruire quel tipo di radio, quella stecca nera, ce l'hai presente? Quella lì è la bobina, l'antenna quella, no. Se vuoi prenderla, prenderla lo stesso, però non è così importante, la bobina si costruisce direttamente, grande, capito? Cioè, perché se no diventa troppo moderna, invece la fai proprio, o perché deve rimanere in maniera tradizionale, capito? Deve essere proprio la radio galera, addirittura una volta si usava proprio un pezzo di galera, nel vero senso della parola, si usava e si muoveva con un chiodo, ti puoi immaginare, e allora si trovava la stazione così. Invece oggi c'è il Dio, la comunità e va bene ugualmente, capito? Comunque tu guarda il sito, leggi, scrivi al computer, sulla tastiera scrivi Radio Galena e lì ci sono tutte le istruzioni, tutte le cose, vai avanti e vedrai che ti puoi diciamo così, ad entrare bene in questo fatto qua e capisci molte cose, ok? E io ti ringrazio Giulio, ora poi domani ti tengo informato. Va bene, buon appetito e nel caso ci sentiamo alle prossime, dai, ti ringrazio. Ok, ciao Antonio, alle prossime, ciao. Più a Pisese, siamo giubicati, ho visto me, visto avere un sabale tonetto, mamma mia, è stato qui una fila, ha ponato. Domani c'è per la Monica, in Italia non lo batti il timone perché ha preso un campionato, però il soldato non mi dà fare, sì, non sono anche altro, però su minore con un paraposta che per salvato mi due, se un campione, il paraposta per salvato, e nei danni su gambe, non c'è niente da fare, che compreso, perché non so, nel mio burro, l'ha comprato un cammino, non è mai locale su minore, che era un'ora per la Monica, però poi non è che non lo fa suonare malagrosse. È difficile, mi dico, io sono la pedagogica da solo, è difficile. Mi ripeto, mio umano ha studiato classico, la pedagogica, liscio, geste, e non so, lo prova da contro lo vuo, su minore non fare niente, e la paga apposta la pidume. Sono a polonare su minore, pago palo già nel palo, però lo sono a polonare, poi io no, che non adesso, io ho a chi essere, pensami, che mi ho detto che mi sono sbloccato, a Polano non fa nulla, l'abito sbloccato, come se prima me l'ha attaccato. E invece a Polacchio dalle bestie, anche qui da vetro, è possibile. Non l'hai mai messo male, mica è difficile, perché mi sono provato, no? È una cosa difficilissima, ma su minore non so, ma sei la preso un corso per noi, un amico in Cagliari, del Cagliari, del Villa Spicciosa. Sono dove liscio, ma sono io a Pozzolone che hanno piccotto. Beh, adesso mi non, come se nel nome non vedete sia da. Carlo Buffaia, qui sono io da. Maria Ciuletti. Ha posto un racco da rompare, io ho apposta la mente più del Ottavio ad ammirti del giorno, subito. E so più di tre compatolicano che non ne sono più, non sono più. Sì, la leo qua canto la posso in garaggia, abbiamo le cambiata. E ripeto, fin di meno dei minori che era come una popolata. Vedete lì, sappiamo le camana, non mi più meno. Sappiamo le camere elettronica, ma ti piace, meno e di questi bada che fanno cogina, che quello potuto facciano. E tanto comando, però non ne ho comprato una meno vecchia. Le ho comprato, le costate di un cazzo, le negozi, le s'affettano però. Poi in cui proprio le ho comprato una tastierina, e intelligente mi vidi in prima elementare, mi non questo modale del numero qui, ma lì è massima, ma è una che di nuovo sonente, che cura più in cara. Ma scrivi che vedo modale, piano piano con questo numero abbiamo memorizzato la cosa della tastierina, che la posa ancora, la posa la vuole ricordare, ma fa pure a buon tempi. E tengo e voi, la posso dire da come sei. Ma a me da attimo mi piace che neanche la fisarmonica. Ma per amore che cosa c'è un drone a poco, e tu mi ti faccio, se sei non me la pregare fatto con lui, dimmi vero. E stanno le deoliate 80, bassi dosi lì, a me piano piano, con il vinello da fondando, e chiara e a trovare. Poi si tende la cosa, si tende passato. 7-8 mesi sono lì a gente, un locale tra la Samona, stanno le ho aiutato anche tu qui, che la puoi sopra a letto, stanno lì alla paghiera, era incassato un racchinale, mi vino. E poi in quel piano piano l'istituto conservatorio ha fatto 4 anni di pianoforte e poi ha trovato col campione del mondo, con Principe, ha girato dopo la notale della Malfrittana e vende il campione in nome del mondiale e il direttore dell'Accademia della Scala. E lui ne ha le mie, e lei mamma, la che si muove, non ha che ha preso non ha che il nome, non ha che non entra più, se non per la buona mandato, io, però io sono come le asciaere o andata da uno che deve fare la canale del Romano in continente, parte. Però chi sono usando di nuovo è nulla, sono un minore, questo organetto non vale niente. E mi nuova perché è nonna mia, la madre mamma, e papà con mamma, sono parenti che non nome io, ma per papà me amoroso, è vedo con altro, un peso, ma che ha quello parente, si ha conosciuto a mamma, e mamma quindi si avvisa se sa dire. Io ero molto giovane, il papà non l'ha mai conosciuto, era un anno, non si innamenta papà, però mamma mia, sai che ti ugrassa, ma che vedi in ferrovia, infatti papà è pensato in ferrovia, papà mio, non ha trovato o no, e là che sono io, là che sul sonetto, la filarmonica, là che allegraia, tutto, sono una che lei è la minore età, nonna, e a decanno, che le ha alleata, ma in cui finché la urbia, cosa contro me, e in quella che hanno sono attia si guarda ma che sono una giovane con chi ne ha dei servizi o la pilota dal verde la che si va lì ma dato una cosa che sembra la ieri ma voi sapete la monica se le ha le picciocco un peso ma sono papà non l'ha mai conosciuto perché era un anno quando è morto un nonno e ripeto voi mi non mi pensate la cosa fredda a me dai mi che la mamma ma mai pensate mi mamma non mi vino a io via se non mi sono ruolato ma io sono la fisarmonica via hanno messo con la piedici perché la fisarmonica elettronica che in Cagliari è libero uscita avvio e io questo non è con questa fisarmonica elettronica per la penescita e mi sono innamorato e sono andato in un tagliatino di chioia e gli ho questo po' di sopra di chioia romale e mi devo comprare che la venivo costruita in tresa e da voi la potete vedere mica non è questa poi la potete comprare di fare una foto quadra compreso e poi da cui poco che mi pensi a mai di me cioè ci sono gambe le cose questa cosa non ti dico la ti piace stare ci vado un essere se non questo un essere poi non dico del vero. Thank you. professore delle arti, accademia del continente, sono professore di questa cosa e diciamo che ha fatto esposizione di qua, e si te pari a prestigio, se poi ti insegnai a prestigio, ma è chi che va a poco, la moglie inizia a lottare, siccome è pure chi sa più di a me, come non è un minore, cioè però non lo rendiamo conto di noi, ognuno ha una cacchi in modo tale, cacchi cosa, come devo soffrire, chi per poi del cantone, non andiamo a torre, chi rimane a sarà di Wissoso, c'è roba che uno rinasce, che uno è nato così, c'è poco da dire. Ah, smetti di fare lo scemo. Sì, lo vai qua, è buono, vedi quello che fa nel falegname, che fa nel testa cosa, e uno che mette un tocano non lo riesce, io non puoi usare, e resta che è buono, capito? Comunque, avanti sono 10, buonasera. No, oh, scusa già, io sto facendo alcune salvature, vi stavo ascoltando, c'è qualcuno che mette portante facendo lo scemo. Quindi mi lavoro sta portante, l'importante è che non la portano, a parte la portante. Parte l'oretta stava facendo le beppe, no, continua già, appena riesco di saldare entro, continua, mi sto ascoltando. No, sono intervenuto per dirgli di smetterla, tutto lì. Sì, altro me, questo pure Pierre. Sarà io, vediamo, per un culo da che uno di pinga fa il culo, ma questo pure un culo da che lo porta portante. Ok, non va problema, tanto me lì, salla che abbiamo di nuove. Capito è fino e poi vale perché mestieri, anche il fatto, tante cose, compreso se vai come si chiama, se quello pisello l'ambito dei minori, magari che il padre, ma che creano l'anime e lui, e il mestiere lo seguono, hai capito? Perché ho visto roba di. Io quello che sono padre, però i figli erano poi il doppio o il triplo del padre, facevano delle robe per far tutto minori. Che da a salvare e andare, ma questa l'hanno la fatta due, eppure fino a hai capito che avevano delle mani d'oro. Proprio l'artista diventa proprio, che è una cosa che mi nasce, che non c'è niente da fare, e mi pare che una volta ne ha preso un altro per lui, ha fatto una chitarra, dai, dopo l'altro, e c'è un lombino, questa, di questo qui, che è di cucina, una volta che non mi credo, cioè ha utilizzato la canna, soltanto la comanda, una chitarra, tu ce l'hai visti, da lontano quasi una chitarra di questa componata, sa, questa canna non è come in tele, poi questo lombino di linea, poi da dopo, quello sono un genio, una cosa di nuovo, da, diciamo, ma intanto non volare per solo, mi dà quello che ti voglia fluidro, che mi voglia qualche altro male, cioè a ognuno di nascere, secondo me, una cosa che ho preso qualche tempo, non sono nessuno di noi, mi piace tanta cosa, però e non dico fare mancura, gira gira, però per un culo che fa che tenere questa cosa fino a tra, che ti riporto male, le gente che ti paglia da materiale riciclato, so che ti paga questa cosa, una cosa che non vende, ti paga che cosa per lui ti lascia la bocca aperta. Questa cosa per lui nasce un pane che è ordine, che ti paglia, ma nel stesso disegno questo pane è ordine, compreso, e che non vende bene. Ma quando andate da lontano, Giulio Dolla l'ho fatto il microfono tutto in linea, l'ha copiato da esudarle, non dico, cioè non può mai compreso esudarle il più 3 o esudarle il più 2, però non è che l'ha fatto questo capo al volo, che non l'ha marito, e l'ha regalato una che non è povera, però una cosa venuta e non crede, me l'ha amato veramente, e funziona io, non fatto che funziona io, l'ha fatto, cioè le mie per usare fotografia, fotografare con la Ezeo, ma è tanta cosa se gli vuole sapere, non vedo almeno, quindi non mi meraviglio, ogni cosa, fino a questo modale che deve su bambino, se fa, e su bambino uno fa che la carta pesta, fa che deve tanta cosa, questa cosa che per uno, il suo quadro è male, in via dicendo, è tutta roba fatta di carta pesta, devi vedere delle sculture che hanno usciti di Don Carlo, so, ma che va è fatto, ma che è fatto di carta pesta, le cose che poi, questa cosa, se guarda regale la canna non esiste più, non vedo, e arrasta in mano questo mi fai questa cosa, cara. Ci sono, fino io, cose ci sono, e qualche essere c'è, hai capito? Perché tutto questo capolare della tecnologia, cavolo, ma chi essere vecchio impara da qualcuno, ecco, chi con noi non conosciamo, però ha imparato, per esempio, uno fa un altro, un nonno, questo nonno ha imparato l'altro, ma deve chi essere superiore e nati da cosa, impiega questa cosa tua, tutto questa gente che impiega la salone, la cosa, volare che hanno inventato questa tecnologia dei campionati del mondo, c'è qualche cosa vede essere superiore che ha da... Mi chiedevo minuti, non ha che di una caverna, capito? Posso imparare piano piano, però questa tecnologia parli di altra cosa, no? Non ti dico, ma come la cosa io mi penso, ma vedo qui a questo programma, sapete no? Qualche cosa superiore a noi, costruita, Peppino. Non è possibile, è una cosa da chi tu fai la cosa, un ovale, una televisione che non fa nulla dentro, al contrario dei televisori che c'erano una volta in pieno, so, di tre persone da lasciare. Comunque non è neanche tanto con questa tecnologia, con questa cosa che uno ha ricopiato giustamente e si arriva ai nuovi, poi se non è partito tutta questa cosa, comunque non so se pensassero una no, la che era stata con questa navicella, una volta, le cose che le parlava dei cassini, che lo povera, con questo suo allievo, io mi credo pure, mi dice una cosa per noi. E dopo mi sono attesi, io stavo facendo una meccanica, ma lo dico benissimo, capito, me la posso prendere la cosa. Ma sono attesi, mai a me mandare a un pezzino del minore, tu devi studiare per diventare giovane, per esempio, fatto un che anno più, però non sono giovane, tra. E cioè, ci sono dei vaghi, lo comprendo, ho trovato una cosa di... però non sono diplomato, quindi non è tutto questa bella cosa. Però, Naro Gur, mi lascio un motore, se hanno un rapporto con un conteo, so, e come si chiama, c'è il cilindro, c'è il pistone, c'è la, come si chiama, il carburatore, tutta questa cosa, e in diesel c'è la pompa di... tutta una cosa sì, però vi do. voi lo sarà aggiornato con questa corda elettronica, per un centralina elettronica, tutto quanto questa corda che è una macchina nuova, non mi devi più con nessuno ferro come si devi tutto questo computer, ma se mi comprendete? Un motore diesel compreso, con una cassa e un piccolo fino a un ferro, o mi sai che ne ha fatto per fare questa scuola a bus? Se mi danno un motore nuovo, una cosa mi viene una revisione, non un rubino, non hanno il filo a pezzi, blocca con la Iana, non per dire, i lì l'hanno lasciato, minù. Non dico voi che con l'ischera elettronica si sente di moglie su un fatto, questa cosa, quando una cosa di questa cosa prima, con un quanto è per un ferro, dove un motore lo vuole da posto di chi vuole dopo di quella officina, e si blocca cosa della ramo di questo fuma anche per un poco, se ho la decentrale mi può le posso amaro. Io cancello, so, siamo due del cugino mio, ma lui che mi impora, se esci, beh, è restata, non dico come si è fatta a entrare, ho chiamato un 7, non mi ha dormito, sono fin dopo, ho dopo dare elettronico, cambio di solare elettronicamente, a combinazione di documenti, beh, ne da uno, se l'altro non riesce a entrare in dopo, lui che fa la mia successo, tocca una cosa elettronica, fino a un peso lo cancello, mi qualche non è indifferente, e non dico poi si ha brincato, se no si ha provato le comunque, e con un casino, e mi stava bene a bene, anche non parente, l'unico poi si è padromino, che non riesce a fare il solare, come no, serrato, un po' metti te aiuto, e anche metto un solare, anche se non c'è un casino che non vola sì, non hanno fatto un congegno, non mi entra più il domo. Se le cambi tu poi rimane una cosa accesa che vuol messa per cancellare quella cosa in un computer che c'è l'officina, ma è te ancora la macchina faccia per la cambio io e sarà sempre bene, ma più forse di mettere che la paghia, però sotto la cosa elettronica meno infatti si devo con una macchina la cambio globale come te ne dico, si la porta la macchina quella, però il suo vale di bordo diventa cosa il vale designata e ti vuole fare bloccare fino a secondo come ti è programmato questo computer di bordo fino a questa macchina, quando va a Natale come tutti parlano freno di facciato, cambiano lo freno solo cambiano il nuovo completo, può andare a questa officina, sotto con mano un intenzionale, un yogo, con il magliare della officina più. Una ossa e sa farò io sa capo meno, poi serrato si postello appena appena più desudato, da parte di una cosiera, su fatta di basta frolla, una cosa, su andando in aeroporto Valina, aeroporto quadrato, cioè, e su fare il suo palacchino, però per voi voi, perché per tutto un pezzo, con una cosiglietta di nuda, di plastica, beh, un pezzo, 80 euro l'ho pagato, più. Vale, può fare una cassata, una cosa che può andare appena appena, se può scendere più di un altro, su un'otte che ha un volume di inventinato, ma per un più di come si fa, se questa macchina di primo ne ha fatto lunga, lei fa di questo vale, nelle pratiche, per una cassata, sotto su questo completo, perché fino, per la fornire la cosa, per sé che tu mi sei cagato. Vado per noi, ma la cosa preferono la macchina, questo qui mette giù a manovella come ti apprimo, quindi una Iana, era un automato modello, un cotoncino, ma c'è un pinettrino, beh, il San Faromeo come la puglia, ma adesso è un mese, se ripeto, questo qui, 6 minuti, in cui a Volvo, hanno da farla io, tocchio appena appena, mi si è brinato, beh, su i cili c'è 0 minuti, sono andato a Ocean, dove andare, beh, sto male brinato, no? Ma anche perché così mette anche il minore, ma così io anche i denti che si può impacca, ti ha conobito, e se cominciate a provare non mi devo ritratto come il pulire subito, ma inteso anche non è mettere il pastraggio sempre, sia Silviano a solo, sia con credo ieri non si appoggia, non mette carrera, a buona dove si è prendato l'unito, e se cominciate mi ricordo ritratto e non passo per il panno. Io la posso mettere vera, mi non lo più. Capite, mi hanno mandato, quella fa che sapete, è portato in armonica, è quello. dentro in Italia, ma è la mia formulare, potrei andare a Italia, là poi in garage, con un bello ovale, e tanto usiamo lì, non è dove volare, la metto a posto, oppure la potrei anche cosa, che la ambasciata che la mano da sopra, e mi danno anche da qui, anche se non piace di tagliare i peli, se le via fare quando si vede io, quando prima moglie che non ho più da tantissimi anni. Quindi non è quello, quello va a essere una romeda quasi un metro con poco in manta, e dopo lui tu andrà a vedere, adesso non si vede chi tratta la fuori di ruolare, compreso, tu questa cosa così che è questa macchina a bicchiere, ne date la macchina in prima, ma non siamo arrivati all'apponato, mi non apponato, è appannato, appannato. Se solito in cuda a poco più, o da lì muore in moto, mai si dice in frazione secondo, aziona io, si dia proprio rovale, come se chi per passare una mano con un intratto, e a poi no, quando si mi chiede da fare prendere questa cosa, in casa da che devo preparare in moto, che mi chiede la benzina, mi chiede tutta la chiave. Tanta cosa per noi, ma la cosa che però in questa tecnologia non è pure bene. Ma come per esempio, questa televisione se con questo schermo piatto, se si guarda che la deve furiare, però manco tu devi curare che nulla. Batteria non giova di urlo, sono sedere riscaldato, sono poco, sono io appena, quando mi arrivo a casa mi ha fatto comodo, quando l'ho fritto male, mi ha fatto quello corso, però finalo veramente, dico questa macchina vedo una macchina da poco. Non dico che no, se ne ha po' più, se la farà, non fare la nulla, non forma questa macchina. E poi sono la batteria, sa, che hanno accogliato la partenza, poi proprio mi ha dato tutti i tocchi in manza, vabbè. Difettosa, vide motore, del dottorato, mi dico che resiste a questo periodo, se non partiamo di questa macchina, non ti assava, non sa di tutto, che proprio, infatti, se ne ha cambiato la voce, ne ha voluto prima il corpo, la rapida fa, proprio mi è stata, la reabita di un fiume, che era per dire il continente, se io, non fino ancora arrivata, gli ha ordinato, tramite un concessionario, tramite la mancata, che ancora, quindi mi ha dato gli azioni, e la prima vita fa, che mi fida, un altro documento, pure controllare. Poi la salione, con un tigento che manda che mi ha dato un babbo, ahi da, mi pare di quasi una decina di anni fino a che lui ha sempre la matessa in batteria, sempre la matessa in batteria che era più pizzata, fino a 3-4 anni, bevi sempre la matessa in batteria, la matessa in batteria. E mi ricordo che avevo un vingaggio, ma ti ha dato una paura, e sempre, si ha fatto un documento di cosa del nonno, capito, c'è ancora mi la pomanza era pure il conto, bevi no, se non mai il nonno, se non l'ha fatto da dopo, è fatta nel 73, Pino, nel 73, hai cosa viene, mi, 40 anni, non so, io sono che pensavo, 40 anni fa che nessuno mese maio. Beh, amici che per sempre su Matesi canta bagno che funziona perfettamente e te o in noi legando che gioca un po' capurro un po' cambiato di abbatto il canta bagno no? Con ogni cosa venivo prima della televisione compreso di quanta era riparaia sono tecnico ma con un tecnico ti rimane ancora della televisione e quanta te chi te la puoi andare subito a chi da mercato e questo qua è un'altra qualsiasi cosa l'uomo no, ha deparato questo fulmine che mi dico su del codere che si è bruciato o a te la cazzata sono andato e ha poco comprato tutto nuovo però prima venivo quando si può chiedere una cosa subito o su frigorifero o una cosa, fino a su frigorifero, se dove nono che mi sta, poi le bevite del 63, non le posizio tua mente stese, che mi sta lavorando come mare di un anno, due anni prima morre il nonno, sempre sono andati in frigo, compreso, e il nome vino frigorifero, quando si guasta, come questa è come era componibile, lo confermo, però il nome si è guasta, vino mai, quando si guasta lo frigorifero vai. E te pare, ma manco una cosa sapete che non puoi nemmeno negli arruolati per tutti. E noi, io ho cambiato la divisione, non funzionava perfettamente. Vuol dire mia, è piccata, noi salso, è stato in piazza, abito dalla divisione, come il CD e che il moviato, ed è in cui mi nuovo l'idea, mi sa cantilena, in domo, poi dalla divisione, innanzi la compagnia di cui, e io una televisione Sava non indifferente, enorme, bellissima, non facciamo una grinta per avvenuto. Se regalavamo pure la potete la regalare, non passa ancora per ringraziare, se no ti devo regalare a te che è appena pubblicata per te. Mi viene ad una in capo di pittura o una la può assata, ma lei che pulite, hai un via con questo video di occhi che si siede lì, che si desinala, che si chermo e compreso. Però diciamo una per le robe che dopo la sto parlando, come si scende qua, però fino sa cosa televisione, cosa ha parlato per esempio, se di qualche anno una cosa, e ne ha su bellico e la compagnia, che vi pone in mano in cosa sa, così fermo piatto, che qui è solo, allora poi la perde e picare se un'ipotesi che manca euro, no? Perché è una cosa che passa qui e chi la pericai, no? Non basta proprio come se non riusciamo sul computer fino. Sono modali, non so, si inquadra da come se questo qua ha colpito su un fulmine, no? Magari ha pregato un possibile, mi ha detto, beh, pubblicato quella velocità, ma sono la popola domani, lo rompo tu. E poi siamo su di quel no che mi costa da canto e lui è no. E lì qua mi vedono uno cucina mamma che mi dice Germania che mostra, ha partito i coglietti mi deve venire, devo una bambina e lì coglione per schede a curva per te. E finalmente prima componente è un rosa, non ha floreato, un Seat, di questo più moderno, che mi dà da un amico mio, quel radioamatore che non lo chiede in continente, come si chiama ufficiale dei carabinieri, non si può dire, capito, in modo che non dice la 29, le cose che Claudio va in scusa, con Claudio sono un amico, però, cioè si prende a curto fino allo chieste, compreso magari chi te paghi a primo. Beh, ad una cosa a te, a bobina, fino a... sono indifferente che ha fatto la fotografia sai, e ti narro che ci vuole nella stazione adesso già compreso e niente dopo di me ora sono stato andato questo posto bello mi per filmi questa cosa vino a una pesceria con tanto di mixer con tanto di teodale che mi dava un attimo un invita prestigio e questo una chiesa come te che chiede una cosa di oro che non la dà mai vedi la nostra non la può trovare quando ti rimiamo anche più con una pesceria lo finendente un signor apparecchio una bambina che ha 6 pizze di registrazione la fine del mondo e non l'ha poleato ma e poi sono delle mie, anche non è nena che cosa andare, però qui del reale, popone di noi, fino avrebbe fatto tutte le registrazioni che facciamo e fra 20-30 anni sempre abitate in cucciata, è compreso, è molto bello, quindi fino è una cosa che asa un rimedio che dovete dare. Che no, vedo che neanche mi la sao, che compreso una cosa. Diciamo che la gaia bufina può registrare una cosa sa, musica però cosa ne fai già sa, fino a bannastro soglioso la telecamera non mi interessa non dà povero ha portato la macchina fotografica è un preso ti pare sa forse no la telecamera io so pete io dei filmati le mamma de, no, non ho capito mi voglio a piangere foto non mi devo essere ma di comunque fino a dove ho messo le tu mi hai messo una saita che non vi più quella paga in mille mi volgo a piangere prima ma quella mi paga di dove stava nel capo una cosa che non ha pochi cioè cosa di pesce deve lei a comprare la babu vuol riprendere la serata sì la serata la riprendiamo non la sapevamo tutto un di piano però filmato di nuovo che non mi stanno ripreso qui non va mai dopo se mi e anche la malinconia, ma è da come era sensibile, anche lei è una persona molto forte, signor già, e invece io ho i miei punti deboli, uno mi può colpire in qualunque punto del corpo, ho preso mi porto a piangere, fino ci sono cose da parente, se ho presente chi non vuoi più, mi farà piangere. E non è non era una greffa che potrei a poco fare, ma pure lei ha conosciuto a nonno, sicuramente va a fare un volo per nonno qui, la linea fuori i piedi alla mano, alla mano per notte, se è compreso, si primeri a di cui va a sicuramente è capitato di mano per nonno mio, una persona che era amico di noi loro, mia nonno era la gradio, capito, ho preso un scemo, no? Ho preso creano amicizia, sento ogni punto, che non hai messo conosciala, sente, o se non lo conosciala, ti diano un attimo qualche subita amicizia e poi uno ci ha fatto un'amicizia e noi veniamo sempre ad arrastrare, ho preso una persona alla mano veramente mi viene. Capito, gente, hai capito come te. Questa cosa sa, dico so cosa, una bambina proprio impiantino, dagli anni 50 agli anni 60, hai capito, a casa, fino a quando il volo è rigido, so. E poi ha portato l'altro che non mi chiedo questo a provare diverso, so. E mi ha regalato questa amicone quel mostro dentro, e su quella collezione è questa cosa puro dello impianto, e lo poniamo pure a posto. E da provando, mi dico, sono volare, siamo una mente per te, questo volare registrato della bambina che sta due, sono molto belli fino, e c'hanno anche valore quest'anno, ho preso, infatti, poi da un sacco di ancora non dobbiamo ancora andare, e se tante te la dame, da un sacco, che ti invito, in domo, ho preso, però molte volte se uno c'ha cuore, mi rifletti, e cosa ha registrato voi, come siete dentro di due, ma la registrazione, queste cose, come ti viene a vedere, ci ho fatto questa telecamera, però si tengono, hai capito, non le ha uno da legare sotto questo luogo, preso. E io non ho comprato quello fino, perché era stato un bel aggeggio, e chiunque io, vedo tanti radioamatori che ce l'hanno, lo stesso, come si chiama, Claudio non ricordi là, ma Claudio forse là, io non ho mai preguntato, l'unica cosa che a Claudio non ho mai preguntato, c'è la volontà della bambina, ha compreso, capito, ma penso Claudio, con una faccia legata, ti dai spada. Sì, su cosa bella, per la testina proprio si è brutta, però si muri, non penso, sopra le mappone adoro, se uso più minore, se uso genoso, quindi minore, minore di caiazzo cantatore santo, compreso all'epoca, mi pare che l'unico fanno da che ora da costruire, proprio mi preguntava dietro, ecco l'altro ancora, e Calanaivi mi da osa, non fa che vedere sono cantatore santo, fa l'unico nel subalco in cui contro un microfono che ha visto su questa registratore, registraia adesso varia chissà e taglia e ha pure iniziato il suo cantatore da proprio nella via e ho preso guarda che ormai secondo chi è se minuto si può andare via però non posso aspettare ma ho preso Sanzetti in gamma perché tutto ora però Sanzetti pure come da mostra non è chiuso in gamma che ha preso mette se avvilita le sacrizi magari i soli canarene fino però chi nel soffitto sono compreso fino alla tripaglio su questa cosa da fuori l'incontro compreso da questa cosa con questa malattia le gaffone e completamente fuori ormai si è ritirata io sono ritirato in domo le vicende cominciano ad andare cioè non c'è più i miei coetanei qui capite che su un fora un po' di paglio compreso e non è stato pago già è più pago primo però cosa pago chi e sì, ho scogliato in un altro luogo che fa di... e come non pesce, quindi non c'è di noi, non posso pagare l'amicizia di noi, che la maggior parte sono poliziani, come, dice sì, adesso non si crea l'ambiente, dove tanto che ti piace, però devo fare un po' lunga contro, un po' una risale, mi vino. Però non adesso devo, mi pare che un'altra odale, voi siete una persona altre sono diverse, tipo 2 gradi, c'è cioè quello che sa radio, bene o male, è tipo adesso la radio, una famiglia fino della gente che moduliamo quasi ogni sera, senti come te frate, qua mie, io frate non da, povero, non conosco bene o male, compreso, però io non posso andare in noi a ambientare in una cosa che io non ho mai frequentato, fino non riesco più a fare, sì, buongiorno, tu mi piace, però quello che devo dire, chi mi fa subito amicizia, pure inserire i Saita Amadeo, diciamo, i Saita che sono anche dove noi non riesco più, diciamo, a inserirmi con altre persone. Prima fino di sposarmi era, diciamo, ancora andava bene, allora c'era ancora la sorella che l'ha sposata, bevi nonna, babbo e mamma, eravamo come una famiglia, tutti noi intimi, come dopo è iniziato, di cui era l'orremia, andiamo a casa una notte, siamo a colontano, per andare a Sabraita, a Cantieri, e Mocannone, mi sono 93, si deve aiutare, però sempre da volare, quindi mi sembra di unito. Poi di Pierraffa, in cui nonno, lei ha lo pago via mia, lo pago mamma, però sempre vinto a casa, se no ho preso noi che primi sì. E poi sono iniziate da quando è Mocannone, le chirurgie familiari, con tutti i miei continenti, che è andata a Peraula già. Ma ti dà ancora che lo vedono noi. E in quella famiglia ha detto tu vai pensata, me l'ho preso, guarda. Poi, e io mi sono preso bene, che se no non mi ha fatto male, perché sono vivito sempre, ho preso. E sorella mia, piccola Iguala, veniva malissimo, ho preso. Poi, e molto noi, sicuramente sei ancora vivo, ho preso. La morra gente, ho preso più o meno che ne ha più, ma ancora negli inferi, allora che ne ha manco a più un babbo, più che non vede più. E successa poi una roba per eredità, roba del genere. E va bene, questa muro poi da poco, non vago superata, fino a che poi è morta mamma, dai, improvvisamente. E tutta questa cosa più umana ha fatto, come se un peso, indossi, a un peso enorme, se vuoi venire con te, con però, se è uniti che è. A poco tempo non ho... ...sensibile, meno. No, manco non è bambino, mi parlo, mi parlo, mi dicevo, dai, ciao, voi. Giusto come sia una autale che devo fare, come sia una però nessuno mi ha presentato quanto posso pensare, una persona mi dà inserrata in domo e io faccio quando lavoro a casa, cioè da vicino a me la zappa però guarda la cosa, io posso non avere in frequenza, sempre con il sistema di lavoro non dello scuola bus, e niente però. Ho preso di pensare un meta o tale, se non potessi dire, amico non vedendo, perché quello che esce ti dà una somma non solo questa mio miglio, compreso i giraimi che abbiamo combinato, che perché non che la manco in vita, e dai, è una cosa rispetto chi ma dai serrano in dopo. Posso dire fino al minuto e il minuto, ogni minuto sono voi, se ogni. Sono di maniera dove usavo un capurro, compreso me la sorella mia, manco a quello può andare, ma è una casa di cambiato, di serrato, io te l'ho fatto gai, perché mi hanno fatto un brutto carattere io, mi dico, non mi devo vedere gai, in realtà mi hanno imparato un brutto carattere proprio, io, compreso, però quando da voi, da zia Claudio, gli amici che fanno per questa, sono un'altra persona, vi abbraccio, però vi quando ho su il 9, perché che mi devi dare il 9? Mi dà una che ti devo dare, perché sto soffrendo, Pino, compreso, mi sono tutto affamato, cioè, a sua famiglia, morito poi, sotto gli unili, a te lo sta, va bene che stavo per prendere, io il caso della capacità, con la bilis è isolato, un cono di confidenza, qui non faccia qui, non faccia là, è compreso, però avevo un muro di nuovo. Con sorella che non ho coniugata, veniva la metà della passata, le famiglie si sono compreso, non vago, sempre come una sorella, un po' di pizze, mi tenevo. Che se ne attia, ma di loro però cioè, non accetto gli altri che tu, diciamo, i porti dei, come si chiama, compreso, che hanno la caette, sanzorre, furate, suo marito a vantare che io le che comandare se ancora la mia, se no, non andrà da Ene. Compreso che il secondo mio, no, le montagne no, che non vedo a comandare mai, compreso che no. E allora ho portato sempre un carattere duro, un carattere che mi sono fatto sempre rispettare, fino a noi sopra chi non che ne vuole passare che una, due, tre, quattro, però intendo ancora che mi do qualche suo punto, lo vino quando chiamano prima, quando l'ultimato. E capito, e così hanno fatto anche questo mio zio, che c'è il mio carattere di continente, guardavo il mio cantante che dia la modale, le ha posto suo valisso, vogliando per via di mamma, infatti, poi la famiglia, fino ognuno ha controllato, ma sono venuti per farsi le ferie, tutta quella, e in poche parole le famiglie si sono divise. vite, ma anche in maniera più si cannò delle cacchiosa da cuore da luna, compreso. E a me un po' mi dispiace con un sacco di ciò, e diciamo la mia famiglia, anche mio figlio vive da mio padre, se ne mio reggio, e mi sa di pulisso, come il che Dio è mossa mamma, anche lui era in nuova, sarà proprio giorno, però io ci sento poco, ci sento, vai, la domenica siamo mentre dramma qui sesso, il mio potete di zero. E così più, perché diciamo sono una persona molto riservata, perché ha detto signor Giale, ha detto c'era nel computer e non c'era, ma perché non mi sono messo io, dice, e mio figlio per darmi uno spunto per fare amicizie, e infatti da poco sono una persona molto riservata, no? Che dà l'amicizia alla valuta, però poi mi devo pure accennare, mi dice no, non sento che può lasciare ciascuno, lasciare a porta la cosa. Hai capito, qui il baracchino, con la ripresa, perché non sembra appunto, forse non ha più un baracchino, mi sono ubicato ancora più su del radio, come se ne calasse, però conosco a te, a Claudio, gli altri amici, a Pomponio, a Gianni, cioè mi dà una a Pomponio con una vicina mia, già, e da voi mi deve venire un muro, mi vino. Però, diciamo, il baracchino che lo conosco da ragazzino, forse riesce ancora a tenermi sul piedistallo. Lo più è sacrosanto, se c'è quella roba lì, fischio sbagliato, non uccide manco a fare dire, come. Perché quello c'è lo più, però, capito, tutto il resto mi manca, fino a adesso l'amico mio, piedi, nati a occhi, a figlia, là, a lì chi si, la traccia, vino, via, vino, meno a parte di un oraggio, se no, quando ci apro, non mi canno più, anche quando lo i miei colleghi, che erano all'arma, che mi sono dato un, o a tutti i costi di vedere di passare con fare mio, qui non dividimisi, manco su letto vino, hanno vivisi agevolo, e la vedo voi dei 23 anni, so, e dico forse blocco con voi, si comincia a ridere, in faccia uno di altri faccia stato, poi sono capo pattuglia, non è che la cosa c'è qui, viene a mordicare un vivisi, e poi anche si va la fidu mio, che è un frate, sempre, sempre da abitare, però anche lì fino a molte volte su una potere di continente e calma come ricca a me. E poi è diventato brigadiere, adesso in pensione, arruolati assieme l'avamo. E però se la potere di continente ha provato con parchi a piscine sono un morto. Allora andiamo, ci facciamo nulla, no assolutamente no, però vanno a chiossa proprio, mi sono passando, sta passata, però molte volte si invita, sono da molto che non vengono, compresa a Tom, mi sono sempre piacere, mi sono compresa. E però i tempi passati non tornano più, i tempi passati ormai non tornano più perché mancano tante cose che vengono assieme, molte volte non ci penso, quindi è così, ma sei noi che manca questa cosa, che manca sempre, è così e più. Antonio era anche, stavo già andando male, non faccio 123 Antonio, Antonio grande amico mio, Antonio Pinna, da buono messaggio, sì Antonio è, diciamo quello che mi ha Montegrappa, esiste dagli anni, dagli anni 70, magari mi ha visto un papo, quindi è una cosa, è una grossa organizzazione, lo conosci Antonio? Qui siamo a me Sandro gira, Sandro gira, è morto Sandro, beh Antonio il frate, persone di crepa, brave persone, io le conosco come le precedenti, non ha cambiato uomo di noi, bravissima persona, non può nulla delinarle, nulla manco qua di telefonarle, manco qua, brave persone, e Antonio come si deve aggiungere, però quando lo vedo tanto di rispetto, tanto di cappello e tanto di gentilezza, hai capito, purtroppo fare dei di massimo, che no, non piace da ognuno a lo comandare. Dico minuti, quando mi ammetto di Antonio De Sandro, ahi hanno una cosa vicina su Duomo per Tattari, e che mi deve lei ad una cugina mia, per sapere con tutto paura, si viene, compreso pronto, per vedere a qualcuno, questo bene, questo non la bella, insomma, è la roba la seconda dei politi, più. Hai capito, io non lo so dove era deposito, so che c'è l'agenzia in via Montegrappa, però e non aveva il suo deposito, non dico proprio. No, io fino, ripeto anche, ero arrivato all'epoca, ero ragazzino, a buscarli le palme per fare le colonne, da questo uomine che si avvicina al dopo, che deve questa cosa per rinnovare le ramme, e no, anzi, se nella segaria la libraria non lo piacere, e bene a me non andare con questa trama enorme per fare questa colonna a noi, se ho parlato degli anni 70, era su Baracchino Antonio, di un mio, non dico il tecacchio, e a tutti i suoi esibito, beh, in tutti i modi, disperato, si picqua, insomma, a me, insomma, per la mia, perché Antonio ha detto per tirare, non ha un pace, che tu mi dire, ma noi nessuno di questo che ha poi nome, dicevo, come se sta andata, tutto a posto, per andare, non mi sembra che è cosa porto aria, caro, ma la chiedo, mi dico, da una parte della macchina, ma c'è dentro il domono. E fatto sta che chi sura che ho già il baracchino che si è controfatti, magari mi sono fatti che dobbiamo uscire. Ritira su per sì, mi sono portato a posto e mi dico su quell'orizzonte che è il baracchino. Ha detto, e se concorro per qua se lo puoi anche aumentare, perché deve uscire con 5 fatti si deve. Beh, mi durata poi nella torrato su baracchino. E se attaccavo fino a sentire la e a mano messo tra la media frequenza, con l'uomo fibratico e tutto quella pressione, con delle cose delle visioni, comunque non andiamo più bene sul baracchino, sette casi ne ha fatto, che non era da Panzer, in via Galileo Galilei, e poi mi ha lasciato un sacco tempo su. Come se uno l'aveva allineato, come tornato, io non lo vedo, ma che poi mi tira a spazio, ha detto già. E se lo tiene, anche perché non mi ha detto, ah, devo dare. E quindi ha detto, ma qual è il tuo baracchino di commissario, cioè, è un attimo, né uno e neanche gli altri, perché l'ha tenuto anche qui, un sacco di tempo, che me lo so anche visto qui, certo, no. E dai, le mi sono su un baracchino male con su Antonio Pinna, e sempre non ammette a me, più. Io qui, non è amico mio, non lo conosco, ci ho modulato ieri, lo voglio conoscere, mi capito per c'è le altre due parlamobile, se c'è qualche antenna nell'epoca che mi interessa, giusto per averla, così, sto cercando una cura, vicinata, la compro. Ok, non lo conosco, però mi sembra una persona, è anche nel laboratorio, sono per mia attività vecchia, e non penso guardi fare con questo legnale, però che non è andato antenna, e invece mi dico, mi confondo, voi va bene, l'ho conosciuto ieri nell'apparato e poi perché più? Presto sanno più, giusto per non essere indiscreto. Se c'è la Colibri mi interessa qualche sigma di quelle che avevo all'epoca, giusto per avere una che l'ho di quelle che avevo all'epoca, ne sto cercando un'altra con la molla più grande, ma ce li ha pure, hai capito, prendo un pugno, me l'ha detto, e poi già, c'è forse qualcosa che ti interessa, vabbè, vediamo, se no vi nuovo, amici come prima, non buffiamo una cosa e tira a campato. Ma io ho visto la frequenza, a tua barracuda stai saltando, ma ci stai ascoltando? Niente, 50 mega non ce li hai, no? Se no eravamo passati 50 mega, dove hai, no, tu? No, 50 mega, se ne facciamo i 50. Cuccio, ma Luciana, la frequenza 50 mega, facciamo i 50 mega. 50 MHz, ce n'è l'apparato 50000. Oh no, mi sto prendendo il video, non c'è un apparato, è un lampo. Però siamo là se non potremmo passare. Michele, un altro baracchio, un altro, cosa Michele, come stare in cui vino, è la cosa della riamatore. E me la volta mi posso arrivare, mi posso. La prima figlia di San Patente, mi tenga tanto il tempo che mi la sua macchina che è la patente. Sto scherzando. No, niente, no. A poi abbiamo la torella che non la tenna che ha idro, è delle patente. Tenna che cosa, so. Poi parlai io di uno, e ho dato le abito a cambio con uno contatto. Siamo un casale e questo è tutta ossa, ma meglio che coniugare, ogni dia mi dia per limpiare, anche c'è il posto, se c'è la raccolta, anche se ne trova altro, vabbè, dammi di un altro, la vincitrese, ma non farà chi due macchina, e per aiutare, poi non dico con su posto, e se qui ne è mai fatto, tanto lui dopo, ma piace. che mi rompi che ne pago. Quando lui dico, mi va il conto, che mi dice, faccio. Ho preso un bel apparecchio, quindi, mi ha provato, grazie, non mi lasciava più in fallo, e non è mamma telefonaria, l'ha provato, l'ha di Apollo Zeroini, ha provato a tale opera, ha provato che gli si è tenuto bene, è stato più d'acqua. Che non costa andare bene, ma era un cioè fumare questo, non vuol dire che c'è niente asciugami, ho compreso quello con l'asciugami, però cioè io non ne compro un baracchino modificato a fare un racchinare, c'è la fuori e c'è un computer che pagano un racchinare, comunque non c'è una poca faccia impattata a fare un racchinare di vita mia e partire se se buona non sono devastata fino a comprirlo, ma proprio quello che abbiamo usato le mie nove, ok. Sì, quando lo abbiamo preso molte persone, di nuovo, non posso poi dare il nuovo preso. La persona che ha poi preso tanta cosa, quindi sono un grande coglione, di nuovo, si fa in gamba. Come va a chiedere, poi sarà quello che va a stare. Comunque, vabbè, che la sappiamo di no, non mi fai dire un po' con la grana, ma... E fai da me in 20 minuti un'altra cosa, fai da me, ma in tutto sono, meno un altro che muovo la ira. Stabilmente, cioè per aprire il neolo, non ho cannuta di questa cosa, però io so, ma tutto qua bene, non è che non ritrovo il babbo, in cui mi appunta io tutto, mi dicono che modula io, la segna io, compreso, e me lo so, ma non mi ha appunto saluto, senti che come non vorrei tirare più giù, e niente, non, e poi non mi ha dato, lo so, non so perché mi ha fatto un'impuntinata, ma non, perché pure, guarda che le chiede, mi sono molto remoto nella caterina, vicino ai vicino ai tiritu, a Giuseppe, a Tiramenta tu di tiritu. Un modulario che lo sai una volta, ha fatto un puntino ad agosto, sotto voi a parte femmina, ho preso Deo, tanto, non lo posso fare, sta perdonato, tanto non se no me l'ho rubato, me l'intendevo, con una del tiritu, che era un piagliano, che faceva il suo baracchino, cioè non me l'ho rubato di no, però... Se va a qualcuno con questo baracchino wikidi che mi dava l'idea in macchina, devo dire di Tattari, e un racchettore, fini, e niente, mi dava un cane che cucchia di invitato, una mozzella, amica sua, è un moladuta, lo zero, i miei piccoli qui in altieri, dei continenti, gli anziano in pensione, ha tutto sacco nel mondo, si è abbattito un urso, e quindi figli, a 5 minuti. Ho preso, ha poi girato male terra, poi gli ho detto in cuore in zona. E niente, e poi quindi gente voluto io non lo so, che era il baracchino, però normalmente si è potente casare con questa cosa, non più quello che mi sia andato fino a una festa che pagava vicino e schivo. E normalmente come di nuovo verso pure per mi curta via, per mi curta bene, ha fatto la pezza a bottino dai peghe, però non mi dà mezzo, quindi a tirare le cose no e non mi dà mezzo. Il mio reaca di la reale su Baracchino. E non è che proprio se la cosa è loro di costruiti di Pio, che mi piace avuto, la loro di costruiti mi pare, che mi sa andato so. Io sono venuto a fisarmonica, non ho più fisarmonicista da Campidaneso, e mi ha fatto una serenata, fino su Messina, su Sassone, la Fora, compreso con Liccore all'epoca, un sacco di orato, però mi trovato, non mi passo manco in strada, più o meno. Da che è vero, Pietro, è davvero una zia, e in un sassone, in un sassone, non mi trovo manco una sala di teatro, una città, a dare in cuore la foto da a te un collega di Giugurma, proprio, non mi fa capire, mi dà serata, da, non parliamo mai qua a suonare, se non mi avete piegato, non parliamo mai, cioè, mi fa capire, Leo, proprio voi, compreso, no, cioè, non mi dà fottia a nulla, compreso, qui non, mi pare che come le coniugata, quando uno che paghi a suono legno e accanto mi sono informato, forse cosa degli mancatori. Mamma sicura la logia mea la buica che era totale e ha fatto uno soccorso e questo che era tra chi di pani e muore c'è cioè, per tartaruga era uno ristorante in cui era su baracchino e quando sa macchina non sa essere lo parlava per un soccorso invece poi non ma le cose amiche muore che mi stecchi di cui quelle baracchine su baracchino. E niente, poi di là che si è qui mi si è dato un in questa io, dalla loro... curso di essere ritrovati, uno cugino, di sua madre e mamma, di sua madre mondiale, e poi quello di un esempio da cui, pure se tre forente, mamma, ma più o meno che non lo pare bene, non che magari sono una brava, ma può la pescare, può la uscire fino, ma può fare una cosa di riguardo e niente. E, però e sono arrivato anche nelle due forse, però i salenimi, grazie a Dio, se mi capita gente in cui ho serata già, non mi dolo, però non mi fare troppo ridere. Sì, distirendomi ovvio purtroppo, distirendomi veramente. Distirendomi, mi pare che soffro qui tre sorre, se mi pare, tre sorre, se non ne faccio nome nemmeno, però nomino tre sorre fini. E sono le agiti su Reggio Palacchino. Ho preso e niente, ha destinato una cosa che mi trova pure a come ha diventato il suo compleanno, mi ha presentato, devo dire che non mi passo con questo tipo. E poi mi vedi uno in corso ristorante e non andai imiti a capito, e se vai a poi in corso ristorante, che la veria del figlio l'altro, e hai già chissà di portare con me, però Deo. La può imparare la può guidare lo zero, come se andare a migliore mi interessare l'annuncio a me, compreso guarda più. E a me lo mio così con guarda con Pusso. Pusso non si dà l'angai, Pusso, non me la voglio mai a Pusso, vedete che però Pusso, aspetta, non mi chiedo più su, già ne ho una precedente alle spalle dell'attore finita, non mi chiedo più su. E niente, guarda questa festa che ha fatto questo pastore, era su baracchino, era la mondiale morta di cura, brava le persone, bimba, madonna, cantina cavaliera. E non è a Giuseppe, non tocca il 5024, attrezzato del microfono, Turner, manuale, Dio, subito come te la pongo, ma poi questo è il topo. Dio, e infatti Dio, la nostra, io lo toccai, questo da verde, questa macchina, questa unto, e lo da punto, questo... E picchiare i miei spacchi di monta a cuffia, anche di do, io ho dovuto guardare la cheppia, però dopo non ti preoccupare, è un video che mi ha affascinato, io voglio assoprarmi del corso manuale, mi è più due. E niente, ha fatto una chiena, però mi vedi fino a una che modula io, dei Giano Monteleone, normalmente ho il tegacchio, c'era la via, fino a preguntare, a buon pugno di zero, si è innamentata. E ne sapevo una da buon cuffia, anche lo può dare, però se la gente che vuole questo baracchino lo pizzeria a nulla, pizzeria un mio nome, in effio, con musica, è una voce, un preso, e... Poi mi piace la donna, un amico come un capitanismo, e mi sono andato in cuore con una cosa le greche, ma notte non io ho visto la musica, non mi nunca fatto, Però diciamo non siamo divertiti, mi bevi con un zionteo e una famiglia che vedi uno della finanza, un ufficiale della finanza vedi. E in cui è quando conosco il terminale con cosa che mi hanno aggiungato e hanno solo i fornitori che mi chiedono. E fino a quella dopo andare in cui meno. Una pesca non indifferente che dura la vita sabato che ti vede mangiare, tutti illuminati al via e a cui scolare le... E però oltre a suonare del baracchino mi era la gente, mi sono divertito in un guardino tra l'altro. E infatti da modulare, come devi prendere una anche in tazza di su zero o poi usare la tifa di una tizia cucinata e lo sanno come era ammagliato e mi tengo una tifa, io zero non mi piove, mi dice devi distaccarlo che avviene finché non una valetta, però ho preso un guardiare la finanziatore dei cose di buon pugno, anche di la IA che dovevo attaccare, comunque di pentata e pintrelli su zero con l'incanto vari che hai, poi non dico mamma con gli zire, e qui stiamo ripoponendomi, no? Se ne levare qui, io non immagino il nome, ma è la roba del genere. E mi dà una conoscenza, e allora chi è super a chi non mi conosco. E c'è una po' una zorra e poi una po' nel frale, non può nunca. Sono solo meno, ecco perché hai compreso. E mai modulato, mai ben mista, ecco, il baracchino viene in nuovo, non che viene in camera, no, quando viene mai viene in cucina, compresi sono sempre alla portata di tutti, meno, però, ma io non anche io sa mamma sicura, che poi è un altro in macchina, che hanno fagliassero malo per la ossa, che via i ricchi, ricompreso, o da lì a giorni che vedi magliene, a tenere un giorno, ma io mi sono andato a situare con questa compreso, può un po' la tranquillizzare, però se uno in domo non dà mai pizzato, fate lo modulare, gli andare bene, meno male che sta passione pure. Oh, a pensare per un, come camarato, danno chiara, niente poco di meno, no? Danno a polizia da modulare te o due etti, due sanno, sai, se ne usa tanta, ad esempio, no? Sanno, sai, c'è la polizia da modulare, e il suo, lo amico avete combinato, e se ne ho così scemo di Dio, e ne ha liberi a dei modi, no? Ogni anno ti hai messo un padre, ho trovato abbrassato, non capite più di nulla, se non andavo a sbagliare cue, ma stava perché c'è un mattone, se ho preso questo qua con il macellaio, e a parte vanno male, però, e cui su casa mamma ha comprato la cattata di taglio, e i soli cose che ho pagato. E poi noi andiamo, prendiamo sempre un po' le cure capitali e a quando vedi di gusto questa macchina su di Windo, ma fai di lascio solo una potere e a poi diventare scemo. Ma quindi non è te questa cosa, è nasce una cosa, nasce chi fa e da ti rispondere. Ma tu mi trovi ad un locale, ma a me tu mi trovi ad un locale, però non apri il patto con l'angolo, questi tre. Ne è più pago, insomma, buona della favola, da chi sentiti. Ma qua mai tanti punti, da chi senti, da chi controlla, che una cosa un po' controllata da chi mi fa da là. E subito mi hanno affascinato, ho preso un po' sul serio, ho preso poi, su Dio, quando era attivato il movimento a terra, cosa fa la meccanica, era un camion, e non sempre torno da me, mi ne avevo dimenticato, controllo, ho ripreso tutto il Dio, un pare, fino a chi ho zero, che cue, andando a sacro e nonna, su Ennero, se lui dice, questa triscema, la triscema invece la macchina, ma è tolto lo zero, come se la facevo aprire di nuovo, ma poi le ha preso l'antenna, e si è comprato lui, ci vuole aprire i gusti, come no, un puma, ad esempio, senti, da che quello che lo so già, se lo apri a poco, sei con la cosa, poi la puoi aiuta, ed è qui, piano piano, mi ha imparato a modare fino, e mi ha invitato la freppa, una volta la niente, e dopo, fino a chi non me l'ha comprato, ed è qui, è partita la cosa, però c'era il bombi, c'era il dolci canale, me ne ha finti i modulettimi. E in cui mi nuovo mi piace a cambio fino a me, da compreso, sa di strada non so come ti date i 9, magari sempre fino a fare un'interruzione a tale ovale, non ti dico su casello, gira, compreso, tutta la cosa si ammala, che sarà, ti ho compreso, ed è comodo, è indispensabile magari lì, però il 9 sa di strada, compreso, la scrivo la memoria, però il continente, diciamo che poi a livello di stazione fissa, non dico che ci sia più dell'affico come il tempo, quindi non avevo tempo, non dico di questo punto tornato dai del computer o di altra cosa, come però il suo cambio sono convinto che sia indispensabile. Che non ha trattato di quelle del baracchino, so, di questo modificato, lo dai corso, che ti sarà questo che lo modifica e con la pirata, o tu questo modifica tutto lo baracchino di suo camion, se sono un orale, una bomba su un minuto, in tre camion vado una bomba, non lo faccio radio. E se di fare nel minuto, quindi di chiudere per la televisione, evidentemente no. Ma poco preso. Abbiamo preso e su cosa diciamo che fanno interferenze, non solo le televisioni, ma anche diciamo la gente che si circonda, no, di non stare a volume bacio, a cuffia, non la supporto la cuffia, oppure si ne pigana a dormire in 9 delle culturali d'otto, quindi è 9 mia e se più potente hanno la ascia dello sto parlante. Ma se non prima la prima, la roba se non prima che controllo, come si dice giustifica, ma... No, ma avete voi, gira, non è prevuto in puro, la vede già ben da pago, se no, ma con questo in anni, la vede più comunque, sono fuori legge ancora, non posso fare un versamento, quindi non posso non fare, ma poi ho compilato il suo modulo, un rapo, da un male, appoggiato in cassino, un altro controcorrente si può compilare e giù per immediato, se no, perché siccome il nome è stato colto di un cassino, so, del foglio, di demonio, o l'ha appoggiato, chi ha compilato, come dico, tutti gli euro, insomma, sta a posto, sono già capito, sai, beh, non mi pittare in mano, come lo andare a garaggi, che ha fatto conto corrente, poi, ho iniziato questa porta, per lei, da fare questa fila, per la volta, che ha fatto conto corrente, compresa. Poi in Italia mi ero reattito un desinale, una massettina, ma poi dopo, non compito quello immediato. Non io la foto per quanto le volte ho pensato di avvantarsi, ho mandato me ne compito uno, però per il pilota che cane immediato, immediato a lungo, perché poi la foto è cura, però la cano, ma come pensa che la casa, se la casa si mette a pensare, non te, io ho fidanzato queste cose, se ho pensato per essere stato conto, sarebbe di contesta da essere morta, laudato la sciabata, ma può dire che la casa è capitato a poco alla ire pavito a porato furia su quella società, ma che è che ne ho furiato su, ne ho compilato perché ripeto la buona mazzetta devo solo molto corrente, se no lo so di chi euro chi mi fa su cuore, la meno non me la più cosa sa, ma su cuore se più giù su su governo no che deve entrare mi meno. Ma solo le devo poi compilare a noi, ci sa, che avevamo proprio da fare, sa, perché se prendi dai mie, i soldi non mandano a me tutti seguono, a me prendi già da tutti i modi, una me la può pensare, io la ho già visto, un po' senza mettere legato, compreso, e niente, la può il 9, fatta dai a mie, ma te si può porre fino, e che avevo la coppia, il suo coppia a mie, e ogni anno ho preso un paio di versamento, ho mandato la deluguale, mentre poi mi chiesi dai compri, la prima cosa che fatto è curso, mentre poi hai chiuso i primari, mi dà le mani uno, però arrivi cosa, le chiede anche la cassa da capiti, le bambino, le cose, mentre da una volta hanno posinato, quindi un inchermo dei computer, con la partita IVA, mi hanno mandato una pinna e un omaggio, questo come le mie addirittura, mi ma anche devo fare cose di nuovo, che mi manda da noi, poi sei un omaggio, poi, però, come devo sempre fare, devo subastare come no, una cosa di ufficio, un stampante, l'inchiostro, capire a ufficio, cancelleria, tutta cosa che riguarda l'ufficio, e ripeto, e tutta la cosa, sembra che un soccolante, ma vedo, e tu vuoi imparare tante cose, guarda che vuoi questa cosa fino a ora, che mi lucai e se ma me la nostra vedi una cosa che arrivi di nuovo a comprare se mi portano a voi arrivi questa cosa a voi allora se sta ora che hanno due ti sono andato liberato che la posso trovare il tuo mi senti di un lucare pare da buscare cade se la trovi muso mi buscia la tega le faccia momento so a me che le busce ma lì che me la nostra sa che ha po' anche solo che i nali buscata non le vengono mai a quello banco ma me la nostra proprio mi pare in loro, loro luminari e di rinnovato che sono una però e come sono tutti lì in noi però a Sillende mi è compreso a fare e tu da un ca compreso voi da una gente che è fino a voi in noi sono raggiunti e devo volare in una posizione mia come mi è dovuto salutarti fino hai capito e no credete che mi ha dato cosa per una che è pintrata devo stare pintrata in tazza non dico se ho un bel figlio scolare non può guardare con nessuna femmina no quella cosa va subito ho preso ho preso la prende con pompone di notte e io non bel figlio l'ho preso una preso un pompone o tenisi o tutti altri ho fatto prova l'ho apparato però non ricordo di questa storia che mi muove ne pare che c'è una che fa essere nel paracchino guai e niente è comune ma quando c'è il mare mi dà la cosa la vita se lo per i fondelli non le cose la gente da quella storia però poi non dico cioè che c'è qualcun altro dell'entrata non parla lunga di male poi come dicevo che prima di niente questa parete dopo e ogni tanto un attimo e sta zero per poi alzato e su banco una travaglia devono capire ogni capola perché ho avuto su tempo due punti non vale esatto non mi vedi infatti ero la pasteggio è volante e poi quando lo devo se no ho provato a poco la prendere del webbo dove si aperto quasi un ieti dove il microfono e niente comprendo che mi dà la cosa con il corredero di un buono cioè non mi dà la pizza la pizza era un buono zero non prendere mi sono detto che devo un po' di cosa che Giovanna che mi ha detto prima però non fa una buona la poi sono qui comunicato un piede zero, ha trovato la lava, ha trovato la lava, ha trovato educatamente, però diciamo, ma se non è che la chiede, ma non è la lava, poi mi hanno pillato per questa. Poi mi si prende, mi sono sempre in giala, ma che pianere, si cacchi una, si presenta, educatamente, come si chiama, le cacchi, ho preso e quindi non mi devo mai muovere, la cosa è stata la chiusura della, la chiusura interna, e poi c'è la chiusura che non mi c'entrano. Ah, pomponio, anzi, addirittura qui per sente, chi vi muore le dopo pomponio, che vi sono le pomponio, potevo usare le pomponio, non è che modulaia già all'epoca, però devo una come modulata, però non la fa mai avuto occasione di modulare questa ragione, anzi, perché io manco quanto meglio che hai assolve se non me ne hanno dato un issue, ho preso, io quando ho modulato, modulavo che prego un issue, e tanto tempo la pomponio perché anche lì, però non è che ho manco creato una sorta di modulaia. Però per il pintello non può venire a fare il dato, con lo zero e pintare infatti piani niente, io ho un uomo e femmina la pintella, cioè non dico che si riferente ai gusto, però anche la povale se non la può, cioè all'epoca la può modulare, femmina, e capire fini, su qualche pipino, però recentemente, una famosa mi ha fatto una buia, una addirittura pesa, ai noi via di Marielle, che lui ha questa multipla, questa antenna, questo nome era tipo, super visima, mi sono arrivata per i fondelli, compreso qualcuno, mi chiedeva a fare cacciole, perché poi non si è più in testa, come si dice, e ora si cade subito, cade un po' in rotto, non rinano, cioè, però, a molto di mia rinano rotto. Ma poi mi dai cosa per vedere quale è il baracchino, poi c'è una cosa che viene in noi, non è il casino, compreso, però sinceramente Leo, questo baracchino, io ho stato proprio con la femmina fino sempre educato con tanto di rispetto, cioè se potevi fare una femmina, ho chiedato per vincere all'epoca, non la vincere il suo baracchino, la paura sono capitata, la ossa, che era il suo baracchino, però per mi picciocco, cosa può fare, però ho sono tutti in cuore, compreso, no, però il suo baracchino ogni volta vincere femmina, perché il suo baracchino è fatto qua, può guardare, può stare unico te, ora se voi, come se nelle due, ne sono le due con il tuo gusto, guarda, se non può fare, se non può fare, beh, ecco lui con no che si idea, però mi dai a me la che mi sia la c'era mettente, mi a ora se ora sa, fino a se ti guarda, compreso che c'è a me mi deve fare le zaffaina di domo, compreso, vuoi stare in no, e compreso, all'epoca io non volevo pure guardare, però ma senti che mi sia portati fino a metà ora in ombra, mi no. Ok, perfetto Pinotti, super saluto, che sono già le 11, mi metto la sveglietta per domani, hai capito, ti auguro una buona notte, mi ha voltato nessuno, hai capito, e comunque se ti fa un ascolto, è salutato da parte mia e niente, e a domani a tutti, faccio il QRT e se capo, non è capogiorno Pinotti, se lo qui tu vende, il 9, se uno lo vuoi, si trovi, e sono le mia, magari mi vado da cuffia per pompala. Di nuovo Pino, ti rimetto il cambio, ascolto il finalino e poi chiudo. Ciao ciao Pino. Grazie Pino da parte sua, andiamo a letto. Ma che non trovo di pitturare le avvenute. Non credo di chiudere a nulla, è perché è anche molto che in questo punto l'apparecchio ho preso e non è tenuto luogo di tenere il suo baracchino, però non credo di tenere luogo e quindi è un'ora per non andare a troncare. Ciao ciao, a domani Pino. E Pino quando parla lui ha fatto una bella in così da buona se faccia non vedi, se no uno magari andava in cui ricorda, compreso, molto buono pure da lui, però l'antenna non vedi del cuore, più da che non vada la tela ovale, faccio un bacio e vedi, e uno mezzo vedi del buono. Noi no, ogni tanto giusto, tanto che non c'è le bisogna, io sono dei no, compreso, in tre dire non cambia nessuno, niente, Pino, ci sappiamo regolare. Di nuovo, buonanotte a tutti.